Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. I certificati bianchi sono stati a lungo vantati come una delle iniziative più innovative ed azzeccate degli ultimi anni in fatto di politica energetica. L'Italia è stata la prima a mettere in piedi questo meccanismo, tra l'altro, e diversi paesi l'hanno poi imitata. Ricordiamo brevemente di che cosa stiamo parlando. Parliamo dei titoli di efficienza energetica, quindi titoli che hanno un loro mercato sul quale vengono scambiati. Da una parte ci sono coloro che devono comprarli. Parliamo dei grandi distributori di energia elettrica che per legge devono garantire certi risultati in fatto di efficienza energetica, o promuovendola da sé o acquistando certificati bianchi, cioè efficienza energetica promossa da altri, mentre dall'altro lato, l'altro attore di questo mercato, ci sono le ESCO, cioè le Energy Service Company, compagnie specializzate appunto nella realizzazione di operazioni di efficientamento energetico che vanno dai condomini fino agli impianti produttivi, che si vedono riconosciute in questo modo i certificati bianchi per poi venderli. Insomma, quindi abbiamo una domanda da una parte e un'offerta dall'altra di certificati bianchi, ed ecco che ne viene fuori un mercato. Secondo l'autorità per l'energia elettrica, questi certificati bianchi avrebbero stimolato operazioni di efficientamento per un totale di circa 8 megatep, cioè milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Oggi ci chiediamo che tipo di operazioni hanno finanziato, e lo domandiamo ad Alessandro Bianchi, amministratore delegato di Nomisma Energia. Buonasera Bianchi, benvenuto. Buonasera, grazie, un saluto a tutti. Allora, abbiamo ottenuto questi risultati per 6 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio con sostituzioni di lampadine ad alta efficienza, erogatori di flusso dell'acqua e rompigetto. Cosiddetti sì. Rompigetto. Questi 8 megatep di cui abbiamo parlato complessivamente sulla... Pesano sui consumi elettrici nazionali per il 2%. Per il 2%, quindi sarebbe un'efficienza energetica del 2% ascrivibile a questi certificati bianchi. Però per tre quarti questa efficienza energetica, se andiamo a vedere, sono lampadine e rompigetto, che sono quegli oggetti che distribuivano proprio le grandi aziende distributrici di energia, vero? Certo, era proprio l'operazione a minor costo e quella a maggiore risultato. Dopodiché tutto da dimostrare che effettivamente si sia creata efficienza duratura. Perché spieghiamo questa cosa, cioè voi dite i numeri di lampadine e rompigetto regalati, come dire, ai cittadini italiani, non è detto che si traducano in efficienza, è questo che voi dite? Esatto, fondamentalmente questo. Non a caso, esaurita questa ondata, adesso il mercato dei certificati bianchi è in affanno, come la stessa autorità, dopo un proclama di grande risultato d'eccellenza, non esita alla fine in qualche modo a fermare. Sembra quasi che tutto questo potenziale si sia esaurito una volta sostituite lampadine, una volta sostituiti i rompigetto. Ecco, perché appunto di questi 8 megatep poco più, circa un terzo è finita in cose diverse. Di che cosa stiamo parlando in questo caso? Allora, per fortuna negli ultimi tempi un po' l'industria si è svegliata, sì. E allora abbiamo fondamentalmente interventi nella cogenerazione, sì. Sostituzione di inverter, sì. E efficientizzazione delle centrali termiche. Il 50% comunque, diciamo, lato industria è rappresentato dalla cogenerazione. Ecco, e insomma, il giudizio su questo risultato quale può essere? Insomma, non c'è da essere molto contenti, no? Dire di no, perché è un meccanismo che sta in qualche modo, ha dato questa fiammata, ma rischia di essere una fiammata di paglia, quando l'orizzonte di questo mercato è stato fissato al 2012 e manca ancora un atto normativo che lo prolunghi fin dove là ci impongono gli obiettivi anche a livello europeo, cioè fino al 2020. È ovvio che mancando certezze sulla prospettiva, sul futuro, tutto un po' si blocchi. Ma soprattutto un altro punto molto importante, sì. È che l'autorità ci dice: abbiamo speso soltanto circa 500 milioni di euro nel quinquennio, spese sostenute dalle bollette, sì, elettriche dai cittadini, e dalle bollette del gas, metano. Sì, sì, ma, sì. Quindi abbiamo speso soltanto di fatto 100 milioni all'anno. Allora, il problema è che abbiamo speso poco, e quindi è vero che abbiamo in questo meccanismo impattato poco sulle bollette. Il problema è che dovevamo prelevare di più per dare più spinta a quello che forse è il più significativo strumento per raggiungere gli obiettivi anche che l'Italia ha per Kyoto. C'era bisogno di più ossigeno per molti investimenti. L'ossigeno altrove c'è stato, è questo il punto? Dobbiamo ricordarci che se è vero che sul fotovoltaico la contribuzione rischiava di essere almeno di 7 miliardi di euro, in questo caso all'anno. Ne abbiamo speso mezzo miliardo di euro in cinque anni, quindi pochi soldi pochi per risultati. Lanciare un meccanismo che poi alla fine purtroppo si sta dimostrando calante e forse ormai senza ossigeno. Senta, ma quale sarebbe il potenziale di risparmio energetico italiano e a questo punto che incentivi servirebbero? Le potenzialità di risparmio dell'Italia sono più o meno 120 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, ma 90 sono legate soltanto alla coibentazione, poi un'altra decina alla cogenerazione. E poi un po' la climatizzazione, un po' l'illuminazione. Di fatto con questi valori i 100 euro per tonnellate equivalenti di petrolio rendono interessante per un investitore, oltre alla sostituzione di lampadine ad incandescenza, la sostituzione di inverter, regolatori di flusso per l'illuminazione esterna e motori elettrici e poco altro. Tenuto conto che una media ponderata di tutti gli investimenti possibili ha un costo di 6.000 euro per TEP, quindi moltiplichiamo il 100 per i 5 e gli 8 anni, ci rendiamo conto che un investimento medio vale 10 volte il recupero permesso dall'autorità. Cioè, insomma, non è sufficiente un importo di questo genere, quello riconosciuto dal certificato bianco, per rendere interessanti la stragrande maggioranza delle operazioni di efficientamento energetico. Questo è questo, ed è soprattutto tardi per rendersene conto adesso, ohimè. E vabbè, e con questa botta di allegria, caro Bianchi, ci diamo appuntamento alla prossima. Un saluto a tutti, grazie. Bene, per stasera è tutto, domani parliamo del riciclo e del recupero delle lampade a fluorescenza. Buona serata a tutti.